con Luca De Fusco, che ha firmato adattamento e regia dello spettacolo Salomè di Oscar Wilde, in scena a Roma, Teatro Eliseo, dall'11 al 23 dicembre. Luca, ben trovato. Grazie dell'ospitalità. Ci presenti questo lavoro? Allora, Salomè è un grande mito. Wilde lo lanciò definitivamente nell'Imperio dei Miti, ma poi ha avuto più successo come opera lirica, la Salome di Strauss, che come testo teatrale di Wilde, perché il testo è ambiguo, un po' comico, soprattutto tragico, pieno di esotismi, con una prosa che sembra poesia. Insomma, è un testo che ha fama di rappresentazione. Invece noi lo abbiamo fatto con grande successo a Pompei d'estate e poi al Mercadante adesso d'inverno, ne viene fuori uno spettacolo che la critica ha definito magnetico e fascinoso e che permette di commuoversi e ridere negli stessi 95 minuti di rappresentazione. Qual è, secondo te, nei secoli il fascino della Salomè? Beh, il fascino della femme fatale, della dark lady, no? di questa Lolita portatrice di Eros e Thanatos, è uno dei miti originali, direi. E nella scrittura, visto che hai curato l'adattamento di Oscar Wilde? Nella scrittura questo mito viene interpretato un po' aderendo allo stile dei simbolisti e dei decadenti sodali di Wilde, ma Wilde aveva una componente ironica più forte di lui e quindi a questo stile, a queste caratteristiche poetiche, artistiche, lui aderisce e contemporaneamente ironizza. Come avete pensato la messa in scena? È dominata da una grande luna, perché la luna è continuamente evocata dalle battute dei personaggi di Wilde e quindi questo grande cerchio che privo di proiezioni sembra una specie di tomba, di sacrario funebre, poi invece questo grande cerchio illuminato da proiezioni varie è la luna che illumina la vicenda, talvolta piena, talvolta con eclissi, talvolta una luna nera, insomma direi che è una delle componenti che aggiunge magia e mistero alla rappresentazione. E del testo su cosa avete puntato? Ma nel testo abbiamo fatto delle integrazioni con Flaubert, con il racconto di Flaubert su Erodiade, e poi abbiamo cercato di non, come devo dire, attutire le contraddizioni del testo, ma di esaltarle, e devo dire poi nell'interpretazione Pagni ci aiuta molto in questo senso, perché noi non speravamo che il pubblico potesse ridere così tanto, invece in alcuni momenti di Pagni lo spettacolo improvvisamente svolta e sembra una commedia borghese e mi sembra l'importanza di chiamarsi Ernesto e appunto l'ambiguità del testo che dicevo all'inizio. E com'era nato il progetto? Ma il progetto è nato partendo da Pompei, il Teatro Stabile di Napoli ha avuto l'onore di poter inserire il Teatro Grande di Pompei nelle sale da noi programmate, e a Pompei ovviamente non possiamo fare Morte di un commesso viaggiatore o Sei personaggi in cerca d'autore, dobbiamo fare delle cose o di scrittura antica o di scrittura più moderna ma di ambientazione antica. In questo senso Salomè sembrava veramente il cacio sui maccheroni. Che percorso sta facendo lo spettacolo dopo Pompei? Allora, lo spettacolo ha fatto 3 settimane al Mercadante, nella sua sede propria, visto che lo produciamo noi insieme a Genova, Trieste e Verona, e poi appunto dopo Roma toccherà le sedi dei coproduttori, cioè Genova, Trieste e Verona, e farà una tournée che finisce all'inizio della primavera, perché poi riprendiamo Sei personaggi cerca d'autore, il nostro spettacolo dell'anno scorso che è appena stato a San Pietroburgo e poi successivamente sarà a Parigi e in altre città italiane. Ci racconti anche brevemente l'esperienza della compagnia? Sì, con molto piacere. Io credo molto nella compagnia, in una compagnia fissa, stabile, in cui alcuni elementi possano transitare, ma l'organico sia stabile. È una cosa che non fa quasi mai più nessuno, invece se si mette la testa fuori dall'Italia, i grandi teatri di repertorio tedeschi, russi, francesi hanno organici stabili, questo si pensava che potesse generare una noia nel pubblico, soprattutto delle nostre sedi, che vede Gaia Brea, Giacinto Palmarini, Paolo Serra, in un'altra compagnia Claudio Di Palma, Ruggero Cappuccio, alternarsi in varie rappresentazioni. Invece abbiamo notato che il pubblico si diverte a vedere questi attori che passano da un ruolo tragico a un ruolo comico e viceversa. Io credo molto in questa cosa, credo che il teatro si basi su un rapporto di intesa tra il regista, addirittura l'autore e gli attori. Le grandi esperienze teatrali, penso a Shakespeare, penso a Molière, ma più vicino a noi penso agli attori di Strada dal Piccolo o all'esperienza della Compagnia dei Giovani o ancora quella di Squarsina con il Teatro di Genova. Il teatro è sempre stato un gruppo fisso per cui si pensavano gli spettacoli e quindi io credo molto in questa cosa. Ora i teatri nazionali la fanno molto poco, ma io rimango convinto pur nel mio isolamento. E allora ricordiamo lo spettacolo Salomè di Oscar Wilde in scena a Roma al Teatro Eliseo dall'11 al 23 dicembre. Un saluto e un ringraziamento a Luca De Fusco che ne cura adattamento e regia. Un saluto, un in bocca al lupo, a risentirci presto.